Eccoci di nuovo nell'appuntamento podcast di Nartra Radio Roma. Voi siete lì e DJ Cocot sta qui, con le cuffiette alle orecchie, il microfonino davanti alla sua bocca, per dirvi ancora grazie per aver ascoltato i podcast precedenti e per non averli commentati, perché noi vi chiediamo di commentarli, perché almeno sapremo se le cose che facciamo vanno schifo o no. Comunque, mettiamo da parte le chiacchiere e andiamoci ad ascoltare un nuovo artista che ho scoperto su YouTube. Lui si chiama Boots, ama la musica, ama i film e soprattutto ama i fumetti. Lui disegna, immagino, perché dovete andare a dare un'occhiata alle cover dei suoi brani, molto particolari, veramente, solo su più.tv, perché non sappiamo da dove viene, come contattarlo, e l'unico modo è andare su Coop e scrivergli direttamente da lì. Qui troverete molte tracce della sua musica compressa disto, house. Insomma, la musica è questa che avete appena ascoltato. Continuiamo con le sue tracce e la prossima per voi è Candy, solo ed esclusivamente su Benvenuti di nuovo su Nartra Radio Roma. Qui è Mr. Cocotte che vi ha appena presentato Mr. Views, Mr. Boots, Mr. Non sappiamo da dove viene, ma abbiamo appena ascoltato due tracce scaturite dalla propria mente, direttamente qua su Nartra Radio Roma. Ringraziamo Cube e passiamo ad un altro sito molto interessante, con molte tracce, con molta musica da smanettare. Stiamo parlando di SoundCloud. Il prossimo artista è un artista proveniente dall'Olanda, esattamente da un posto che non so pronunciare. Lui è A Pair of Glasses, con la loro traccia, che anche questa non so pronunciare, ma ci penserà lei a farvi capire come si chiama la prossima traccia. Il nome della traccia è questo, e questo è il suo remix. Dall'Olanda, Die Lorelei, su Nartra, Die Lorelei, Radio, Die Lorelei, Roma, Die Lorelei, Roma. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin? Die Lorelei. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin? Die Lorelei. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin? Die Lorelei. We'll be right back. Was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin? Loro erano The Thousand, o meglio, come si dice qua a Roma, i 2000. Loro sono di Roma, direttamente su Nartra Radio Roma, attraverso la recensione di Mr. Renton, un nostro carissimo collaboratore che presto sentirete suonare, parlare e riscrivere di nuovo di altri gruppi, sempre su Un'altra Radio Roma Recensione. Potete andare su Un'altra Radio Roma Recensione attraverso il blog principale di Un'altra Radio Roma. Troverete sulla destra i link per accedere e i vari gruppi di cui abbiamo fatto le recensioni. Perciò, dopo The Thousand, dopo SoundCloud, ancora SoundCloud, e dalla periferia di Roma per voi DJ BNZ MNZ con un pezzo nuovo fresco fresco, 10 minuti alla fine. Per voi, già sotto la mia voce, DJ BNZ MNZ BNZ Z MNZ su un'altra radio Roma BNZ Z MNZ Z di 10 minuti alla fine. Nartra Radio Roma, di nuovo con voi sulle frequenze che non esistono. Con voi Mr. Cocotte è appena passato BNZMNZ. Prima di lui The Thousand. Con il pezzo Jump Up, un remix di un pezzo di Krugers e Major's Lasers. Ora per voi, direttamente dalla Sardegna, penso che siano di Cagliari, un'etichetta è totalmente Creative Commons. Loro si chiamano Signora Franca Records e questo è un artista della loro uscita numero 007 del febbraio 2005. Lui è Casanova e questo è ancora un po' di Exit con il pezzo Fucking Machine. Casanova, Casanova, Signora Franca, Signora Franca, Signora Franca, Signora Franca, Fucking Machine, Fucking Machine, Fucking Machine, su un'altra radio Roma, Creative Commons, Creative Commons, Creative Commons. We'll be right back.

Thank you. Ultimo pezzo per la signora Franca Records, lui era Needy Bye con il pezzo The Flow, dall'album Technical Difficulties, uscita a 049 dell'ottobre 2009. Andate a smanettare sulla signora Franca Records website. Adesso ancora un'altra di Roma, ancora parti. Drum machine is waking the bit. Don't like music, I live in my car. Please give me some stupid pop songs without getaway rows. No rolling drums, please give me some stupid pop songs. I'll be right back, right on time. I'm looking for another

Ed ecco a voi The Sphinx Romantics, direttamente da Piacenza, adesso anche in un podcast di Mr. Cogot su un'altra Radio Roma. Ve li avevo fatti già ad ascoltare, mi sembra, nella terza diretta, ed ora per voi il synth pop di Sphinx Romantics, con due pezzi. Il primo, No Party, il secondo, Ladies and Gentlemen. Dopodiché voglio ricordarvi due appuntamenti importanti per un'altra Radio Roma e per un'altra cosa. 21 giugno, ore 9, sempre 1000 mics, i quattro scapestrati Mr. Cocotte, Mr. Gasperino, Mr. Campo e Mr. Brontolo vi faranno compagnia per 3 ore con musica e deliri di ogni genere. Su 1000 mics, ore 21, 21 giugno, ore 21, 21 giugno, ore 21, 21 giugno. Spero che ve lo ricordiate e che veniate a commentare e a dirci quello che ne pensate. Dopodiché, ultimo pezzo per questo 41esimo podcast di Mr. Cocotte e di Nart Radio Roma, il nostro artista Beast, direttamente da Caserta per la Noise Beat Net Label. E qui c'è un'altra cosa da ricordarvi. 25 giugno, Noise Beat Creative Commons, in concerto con i due ideatori della Noise Beat Net Label, Gaudio e Beast, con un DJ set e uno showcase. 25 giugno, Nartro Bare. Perciò Nartra Radio Roma presenta il primo evento Creative Commons a Nartro Bare con Gaudio Beast della Noise Beat Net Label. E ora Beast con la sua ultima release, Purple Haze LP, con il suo brano che si chiama Icing Sugar. Icing Sugar è di stampo techno dub, con un groove semplice e diritto, battute basse, suoni deep ed electro che si intrecciano con varie percussioni, reverberi e delay che vi porteranno a far capire come sarà la festa sulla spiaggia di Capocotta. Un'altra cotta, un altro bare, un'altra Radio Roma, un'altra storia. Per voi, solo musica Creative Commons, Mr. Cocotte, un'altra Radio Roma. E adesso, dai. We'll be right back. Rob, dai, tocca a te. Va bene, è una cosa semplice oggi. La top 5 dei primi brani degli LP. Jenny Jones, Clash, da The Clash. Let's Get It On, Marvin Gaye, da Let's Get It On. Nirvana, Smells Like Teen Spirit, da Nevermind. No, non mi piace, Rob, è una scelta scontata. Che ne dici di Point of No Return, da Point of No Return? Sta credo zitto, che pianta, sia d'accordo white con light, Whitehead, Velvet Underground. Sì, quella la metto in lista. No, io mai sulla The Massive Attack, da No Protection, la canzone è Radiation Ruling the Nation. Finalmente hai citato un disco nuovo, complimenti. Senti, scusa, sto un minuto, un disco... i miei complimenti, Rob. Un furtivo omaggio a un nuovo classico infilato chissà come in una lista di vecchi successi mossa subdola e decchecca. Scusami, volevo sapere se... Una cosa ancora più ovvia, che ne dici per esempio dei Beatles? O meglio ancora che so, del grande Beethoven. Lato 1, primo pezzo della quinta sinfonia. Come fa uno senza interesse per la musica a gestire un negozio di dischi? Scusa, ce l'hai l'album Safe as Milk di Beefheart French? Ah, dunque forse sì. Sì, c'è, eccolo, tieni. Bene. Quanto me lo puoi mettere? Oh no, sai una cosa? Non te lo posso vendere adesso. Prova la settimana prossima. Hai detto così anche l'altra volta. Ah sì? Allora vuol dire che... Ottima interpretazione. Io non ce l'ho quel disco. Lo compro per 40. Rob, venduto. Scusa, perché lo vendi a me e non lo vendi a lui? Perché tu non sei un fissato, Luis. Certo che siete snob. No, non lo siamo. Sì, invece, siete degli assolutisti. Vi sentite come scolaretti incompresi e disprezzate quelli che ne sanno meno di voi. No! Vale a dire chiunque. Beh, sì. Triste, sì. È una cosa triste, davvero. Ragazzi. Nar tra Radio Roma! È tornata. Ok, questa è la mia trasmissione. Ragazzi. Ok, questa è la mia trasmissione. Ragazzi. Il tuo tempo non è nessuno. Ma proprio nessuno. Il tuo tempo non è. Bastardi. Buonanotte a tutti, a tutti, a tutti, a tutti. E buonanotte a tutti. Buonanotte a Gasolino. Buonanotte a DJ Bruttolo. Buonanotte DJ Dogo. Buonanotte a nessuno. Buonanotte a tutti. E buonanotte al cazzo.